avanti, salve. Aspetta, aspetta un attimo, c'ho le mani bagnate, riprendi Tony. Cioè, proprio da mangiarmi. Niente, io se riesco a fare la proposta, a fare scambio, diciamo, arrivo tutto il resto che c'ho da dare. Perché mi voglio liberare quell'armadio già, è un casino. Perché ho sempre pensandoci, se riesco a svuotare quell'armadio che ho fatto a muro, c'è la roba che mi ci sta là dentro. E mi elimino qualche mobile che c'è in cucina, che è un casino, troppa roba c'ho. Che cavolo. Adesso giovedì viene mio figlio, quella casetta che ho messo fuori, quella verde, la svuotiamo tutta, la sistemiamo e poi di roba gliela do a lui, ne ho troppa, è un casino, gà. Scappagata, ma tu quell'alimentatore che ti avevo dato io te l'avevo venduto? Io ce l'ho sempre qua. Ma l'hai messo in vendita? E sta che funzionando, è acceso. Quello lì è un reperto archeologico, gà. Sì, 23 ampere c'è scritto, già. 20/23. Sì, ma quello te le dà anche di più, capito? Perché quelli che ti vendono ti mettono 30 ampere, dopo 30 ampere non manco arrivi. E poi c'è quello chiamato Manuele, che fa anche da accendisigari, pensa un po'. Quello è bello. E c'ha lo strumento, la ventola, tutto c'ha. Quello è 32 ampere, mi sembra. Sì, ma è diversa fattura, capito? Quello lì è col trasformatore interno, l'altro è la schede. Quella schede, diciamo, sì, vanno bene, ma dice che sono pericolose, che se ti partono di colpo ti fanno partire anche la parete. Ma non penso che sia schede quello amato, Manuele, non lo so. Sì, non penso come quello amato tu, assolutamente. Cappagappa. Avanti a chi tocca. Luca, è un cadice se fuggito, roba più in sciù. Io sono qua, mi sto finendo gli ultimi 5 anni che stavo facendo un parametro nuovo, stavo costruendo su richiesta per una persona che aveva chiesto, io l'ho fatto. Adesso l'ho finito. E quando l'hai fatto? 250 armi, io 500. No, è piccolo, è una delle prime armi, capito? Deve imparare, ci ha comprato un gomone e voleva un parametrino, io l'ho fatto da 200 armi, capito? Vabbè, di solito dico sono 250 anni, comunque 200 già, finire fino a fare i buchi, a voglia. Io la verità con 200 anni manco quando mai, non ce n'è più pesce come prima con 200 anni ti facevi la bella pescata, adesso è le crisi buri mari, la sabbia lì, Anche il pesce ha capito che i prezzi sono alti, e che dico che ti ha dato mangiare a mondezza, tu dici mamma mia. Chili e mezzo, se mi dici si andava. Oh, già. Anche il pesce se ne accorge, dice no, che ti mangiare a mondezza a mangiare, anche le crisi allora non riesci a mangiare. Ah. Capito, serve, adesso non riesco a fare le uova, le orate, che sono belle massicce. Adesso vengono a terra le grandi, ma... La tavola poca roba arriva, poca roba perché c'è poco da mangiare, quindi poco da mangiare e loro tirano dritte, scendono magari alla spiaggia di Barisi, ce ne sono posti dove andare, le orate fanno una marea di chilometri. Al settimo ce n'è un bel di orate belle. Allora che antimo che mi sono andato da un settimo, pure da poco, ma un giorno penso all'altro, la sabiglì. A volte anche l'orario, devi beccare l'orario giusto che loro fanno il passaggio, capito? Mormoroni di tutto, razze, cose che non pigliavo i chivi. Sì, in effetti là c'era un periodo che toccava, un bel me poi, c'erano 2 o 3 ore rimasto la toccata, poi tornava la toccata, alla fine di me esci menando, ma sono prima. Quel lì c'è la cosiddetta autostrada, è praticamente un canale che passa dove se tu riesci ad arrivare con lancio, però devi fare 150 metri dalla riga, devi avere un bel lancio. Devi essere di quelli che fanno le gare di pesca, che sono quelle canne di talcana belle. Ce n'erano due che facevano lanciando e prendendo sempre. Attenzione, quello braccio che va, ce va. A far lanci, la gabbetti. Forse prima andare a marcato il vostro lancio vedo. Io ho una terra nuova ripartizione, 3 elementi, non so se la conosci. Ho già. Sì che la conosco. 400 euro di ganna. Lo so. Io ho Olympus, c'ho Morire di Shimano, ma è tutto un vemo, non sto più andando. C'ho lo 8000 Shimano che ci sono 300 metri di 0,40. Io ho uno Shimano, un 8000 XP, e dentro ci sono mi sembra 450 metri di 0,30. Più c'è lo shock leader. Spero sia normale, Salvi. Ma anche io se metto 030, Salvi, ce ne sta un bel. Babbo, va, vi saluto, ce l'ho anche più piccolo, ci vanno, sono 7.000, sono 8.000 e gli altri sono mulini lì. Il mulino piccolo lo usavo per fare i calamari. Oh, Gianni. Vabbè, dai, vi saluto, che stanno che arrivo a trovare una coccana, che devo pulirlo e poi devo farlo da mangiare, dai. Una pillola. E vabbè, devo farlo da mangiare. E via. Vabbè, allora, resto in radio. E vabbè, allora rimango, là. Gianni. Oh Gianni, sì. Scappa, stavo parlando con lei, no, dai, c'è il microfono, mi sono accorto c'è il microfono aperto. Perché no, perché dovevo fare da mangiare al cane, invece lo sta facendo lì, dai. Ma mi senti già? Salvi, ma uscendo sto. Sì, che stai uscendo. E non mi rispondi, su questi luci ti ho chiamato. E allora ci siamo sovrappopolati. Allora, sappi che io il giorno 28... per saperlo, devo fare la visita alle 11 lì a Conti, capito? Se ti chiamo prima, ok, se ti chiamo dopo, ok. Va bene, dai, mi regolo di conseguenza. E fatelo sapere, non peraltro già. L'ho chiamato a conferma il giorno 28, quindi. Forse devo ripetere di nuovo le stesse frasi che ho fatto, ma a me in bare, boh, io sono metto il ghiaccio a notte e mi fate più bene, altro che ultrasuoni. Ehi, io ho fatto anche le applicazioni elettriche, però mi hanno fatto bene a me, a Porto Torre ce le avevo fatte, mi facevano le applicazioni elettriche. Io ho un tipo di, che dura 25 minuti, tipo elettrico, si muove tutto 30, metto come? E quello 25 minuti, poi invece ultrasuoni che non sente niente, là 10 minuti. C'è la portanza. Ah? Cosa già? Forse c'è la portanza. Sarà lo scema di turno. Oh, forse perché avevo il volume basso io, quando parlavi non ti sentivo, non lo so. Vabbè, comunque, niente, d'accordo, dai, mi regolo di conseguenza. Speriamo che sia prima o dopo. Vabbè, sei 28, ti chiamo verso andare 8:30, a me va bene, non c'è problema, tanto devo andare alle 11, capito? Hai copiato? No, perché sentivo questo rumore. Ma c'era portante, bocca senza osso. Non lo so se è portante, bocca senza osso. Io non sento nessuno portante, mi sta ascoltando tutti e due bene. Allora già il baracchino duio, Ti stavo dicendo, se ti chiamo il 28 e devi alle 8:30 che sarà, ma siamo alle 9, io ti accompagno, non c'è problema. Capito? Sai che io devo andare alle 11, non c'è problema, ok? Sì, io va bene, già ne parliamo al telefono. Va bene, capo di Lucio, avanti Sammy. L'ultimo mi sto legando, poi faccio la calata, 20-30 metri e taglio tutto, io. Ma non ti incasini mai con il parametro, non si ingrugia mai. Ui. Quando era le prime armi, sì, ma va, so bucare, un'esocubulcraco. Perché non è facile. Come mette la macinella su con intorno agli armi tutti in giro e giro? Quello è il modello di antica, dai. Io uso solo quelle con la mangiatoia. Dentro la mangiatoia riesco a farci stare anche 500 uomini innescati in una cesta. E com'è questo della mangiatoia? La coffa, quella che vendono che attorno c'ha tutto il bordo. E lì metti tutti gli ami in scaletta, ma non devi imbagliare un colpo, però. Perché sennò, come stai dicendo Gianni, quando vai a calare, ragazzi, pacchini gli ami a mazzetti. Vedi, troppo casino, meglio niente, dai. Bisogna farlo fare chi lo sa fare, è buono. Però se scappiti bene, io mi ricordo mio cognato che buttava il palo, che prendeva certe orate grosse, avevano la casa lì, a casa mare, a Trattamola, e che servizzava sempre amici, infatti mia sorella è sempre incassata perché dice che c'era sempre casino e poi toccava pulire da lì sempre. Ho più mille lavorare di male da 4 kg a 3 kg. Invitava gli amici, se le arrostivano, se le facevano arrosto, mangiavano tutti in greffa. Che stavo facendo la legatura. Già, si va bene un esempio di un bel anni fa, non di adesso. Sì, infatti, non è adesso. Non è adesso, è anni fa. Erano giovani ancora quando succedeva questa cosa. Si aveva comprato un gommone e usciva con gli amici. Se ne prendevano a volte, riempivano il gommone di pesce, saragoni, di tutti di più. Sì, già le ho fatte anch'io, delle belle pescate. Ho preso, arrivato a prendere anche 45 kg di pesce, ma... Però ti ripeto, ultimamente mi è andata una bene, ne ho preso 22 kg, ma proprio incorniciatela. Poi riprovaci, sarai più fortunato. Dipende anche cosa inneschi, perché c'è il periodo che si può innescare una cosa, il periodo che si può innescare l'altra, tu lo saprai, no? Ma è tutto collegato, non solo l'esca, capito? Perché a volte io ho fatto delle pescate e di esca va più rondezza già. È questione dell'alta marea, della luna, sono tanti fattori, capito? Ma dove luna non vedevi manca andare? Eppure sono andato con la luna che era in fase crescente, ho calato a 40-50 metri di profondità e l'ubescio ha giovato un martesi, c'era un pochettino di movimento, l'acqua non era ferma, e una giacca di Saragoni a 50 metri di fondo gli davo 200, un chilo, capito? Però non vuol dire, certo che si butti in terra, c'è la luna piena, vero Lorenzo, non mangia, tocca di nuda. Ma tu come fai? Lo muovi il palamezzo tutto il giorno? Oh, io rimango sempre in zona Cesarini, non me ne vado via, capito? Tipo sono al mare di fuori, mi lo metto il gocco in chivi e dormo di lì, riposo, prima di uscire la luce io sto già partendo in acqua, capito? Perché tipo in zona di sorso li rubano anche. Infatti in zona di sorso non vanno a picchi tempo. Ne manca alcuni colpi di remo a Cabanciuno, perché intanto ti riescono a rubare, e tra te che stai buttando il palazzo, ma poi non c'è, ti ripeto, c'è anche poco pesce, quindi io a perdere tempo non ci vado, preferisco andare in altre zone, che dove bene o male ho sempre pescato bene, capito? Già in Castelsardo si pesca bene, andando verso Castelsardo. Vabbè raga, dai, io vi saluto, dai, mi sto stancando perché sono a lui e non vi la vostra. Dai, ci sentiamo domani, mi guardo un po' di TV, oggi mi pare che ci sia le Iene. Andate già, dai, vi saluto, anche a te lui, buon proseguo. Ciao, ciao, buona continuazione se restate, dai. Ciao a tutti, crediti per me, ti saluto anche gli ascoltoni, intanto ce ne siamo tanti. E invece nessuno. Tu li abbiamo salutato, io lo stesso sto passando in quel RT. No, mi hanno chiamato la Vodafone, c'era un problema e quindi, capito, ho abbassato il volume e se non sentiva lì. Vabbè dai, ciao, già ci sentiamo al telefono con Gianna di Mite. Ciao Savi, adesso anch'io mi scorico e mi guardo un po' in TV. Stavi bene, dai, mi ha fatto piacere sentirti, dopo un bel po'. Ciao Savi, buon lavoretto. Andare, ciao Tony, a presto, buon proseguo di serata.